domani, lunedì, comincio. Stamane abbiamo lasciato a Santa Maria l'albergo delle Terme sul lungomare, alla volta della nostra casa d'affitto sulla statale, sopra Castello. Mentre scendevo con le valigie nell'atrio, un uomo vestito di maglia marrone è venuto avanti e ha chiesto del direttore, di me. Ho detto subito, io non sono il direttore, sono un impiegato qualsiasi, non ho ancora cominciato a lavorare. L'uomo non si è dispiaciuto né si è deluso, come se non vi credesse o come se un impiegato del nuovo stabilimento valesse comunque un direttore. Alto, dignitoso, biondastro, avevo ugualmente una domanda pronta. Dottore, ho cercato una casa. L'ho trovata, ci sto andando. Io tengo un'occasione per voi. Un grande palazzo in via Dante. Alighieri. Come conoscete questa via, dottore? Non conosco la via, conosco il nome. Vi ricordate anche voi di quella grande, grandissima nave? Non mi ricordo una nave. Mio padre faceva il cuoco sul Nella Dante Alighieri. L'hanno varata che era piccolo. Vedeste che bella nave e che bella via, come la nave. Voi il nome già lo conoscete, un palazzo adatto per voi, per un direttore. Ho già trovato la casa, ci sto andando, non sono direttore. Mi raccomando, ditelo qui in giri, che io non sono un direttore. Sempre a disposizione, fiero di quello nuovo, di questo nuovo compito, egli si è inchinato solennemente. Non ve ne incaricate, dottore. Ha preso le nostre valigie fino all'automobile davanti al mare. La sua maglia marrone era una di quelle maglie grosse che nelle città settentrionali le portano d'inverno sotto la camicia. Era questa una divisa del sottoproletariato, lacera e nobile, ed egli la indossava come una corazza piena di buchi, come un giustacuore. Non sono un direttore, sono un impiegato addetto all'ufficio del personale del nuovo stabilimento meccanico costruito a Santa Maria da una grande società del nord. I miei compiti riguarderanno specialmente le assunzioni di operai. Esse vengono fatte con l'aiuto della psicotecnica, la scienza dei test e con l'intervista di selezione. Questo è un colloquio durante il quale si indaga la personalità dell'intervistato. Lo stabilimento funziona da qualche anno, ma ha avuto inizi graduali e solo adesso vi si crea una struttura organizzativa ancora fresca, gracile. I dirigenti sono pochi, accentrano molte mansioni. Il direttore dello stabilimento tratta lui con la commissione interna. L'ingegnere, direttore della produzione, si occupa lui degli operai, che conosce uno per uno. L'ufficio del personale è appena nato e sarà tutto assorbito dal problema delle assunzioni, dei rapporti con l'esterno. Di contro a 300-400 assunti e ad un'espansione prevista di qualche altro centinaio, tutta la zona, popolatissima, ha fatto domanda per il nuovo stabilimento. Solo quando avrà fronteggiato le richieste esterne e acquistato prestigio presso i capi, l'ufficio del personale si occuperà anche degli operai interni. Per adesso, il vero capo del personale è il direttore. Lo stabilimento è sorto come un'officina, un reparto staccato dagli stabilimenti centrali. Piuttosto che allargare questi nel nord, con un nuovo edificio, la costruzione è stata trasportata nel mezzogiorno. Non è un capannone, l'architetto ha progettato una delle più belle fabbriche d'Europa, colorata, circondata da un giardino, e intorno ad essa l'infermeria, la biblioteca, la mensa. Vi nasce un mondo unitario, caduto dall'alto nelle sue forme, ma per affondare nella terra e nello spirito di questo paese. Questo paese è come una miniera umana, cova fra le più profonde ricchezze d'uomini del mondo. Noi siamo venuti a scoprire un nuovo, difficile oro, sepolto dalla natura e dalla storia. Marzo, lunedì. Sono entrato per la prima volta all'improvviso nel laboratorio psicotecnico. C'erano i candidati seduti ai banchi e hanno alzato il capo dai fogli dei test per osservarmi. Eccone un altro, pensavano. Il nuovo, l'ultimo venuto. Che tipo è? Porta bene o male? Lo sanno che il nuovo impiegato arriva sul loro destino. Una luce forte fluiva dalle due pareti di vetro, d'angolo, ma subito mi sono tolto gli occhiali neri, tuttavia mi sono comportato freddamente, da funzionario indecifrabile, senza guardare in faccia nessuno. Infatti non ho veduto nessuno. Ho salutato la signorina S, la mia collega, e mi sono dato a sfogliare le pratiche dei candidati sul tavolo accanto alla lavagna. Fingevo di esserci ancora immerso dentro quando ho aggracchiato la sveglia sul nostro tavolo. Scadeva il tempo concesso per la prova scritta su cui stavano arrampicandosi. La signorina, alta, settentrionale, vicino a me ha fatto risuonare una voce fatidica. Consegnare! E tutti si sono mossi. Noi abbiamo raccolto dai banchi i fogli riempiti e loro si sono agitati e stirati sulle sedie come se si svegliassero. Subito la signorina S, con voce stentorea, ha scandito la spiegazione della prova seguente, dopo aver distribuito i fogli nuovi in fretta e aver ricaricato la sveglia. Era un reattivo per scoprire le attitudini intellettuali non verbali, un classico dei test chiamato incastro. Esso richiede che con gli occhi, con la fantasia, soppesandole e rigirandole nella propria testa, si incastrino figure geometriche disegnate a fondo pagina, dentro altre in cima alla pagina che hanno appositi spazi bianchi. Non è possibile aiutarsi con le dita come verrebbe la tentazione, le dita non afferrano dei disegni. È un test complesso che misura l'intelligenza e in parte un'attitudine meccanica dove molti fattori si mischiano. Per quanto ogni testa voglia scoprire una faccia dell'uomo, in ogni faccia vi sono tutte le altre. Via, ha detto la S. Le teste dei disoccupati 15 si sono piegate. Si poteva notare un grande zelo. Soffrivano a rigirarsi quelle figure senza potersi aiutare con le mani, in uno sforzo di manipolazione astratta, di forme innate. O si sarebbe potuto assistere alla nascita dell'idea, del processo ideativo, nel punto più profondo e remoto di tutta la mente umana. Ma dopo poco, come a scuola, uno tentava di copiare. Un altro alzava la mano per chiedere una spiegazione inutile. Si era dimenticata la sveglia, i 3 minuti e mezzo, e secondo lui prendeva tempo. Ma il reattivo vive di un acume veloce, istantaneo. Non è un gioco di pazienza. Un altro voleva temperare il lapis. Due mostravano d'essere bravissimi, avevano già finito e con gli occhi vuoti e scaricati contemplavano il soffitto. Invece qualcuno ha lasciato in bianco subito e si è arreso. Nel frattempo abbiamo avvistato un analfabeta che non sapeva tenere il lapis in mano, che non leggeva le lettere ABC, i segni indicativi delle figure da mettere negli spazi bianchi, e che invece di incastrare col brusio interno del cervello al lavoro azzigogolava una specie di firma in fondo al foglio. La sua materia cerebrale ignara taceva del tutto. Aggracchiato ancora la sveglia, ho imitato la signorina S e i miei antichi professori alla fine del compito in classe. Consegnare. Si è sciolto un movimento di facce, di mezzi busti in giacca o in moglione, di ragazzetti, di uomini tarchiati e di cittadini in blu scuro mescolati ai pescatori. C'era anche una ragazza sola. Tutti mi hanno fissato di nuovo, come svuotati dalla curiosità e dall'ansia, abbandonati al destino che andava come andava, prima di riabbassare la testa alla prossima prova. Queste prove scritte, che tutti eseguono insieme, chiamate collettive, nel pomeriggio seguiranno le individuali, ogni candidato da solo alle prese con uno strumento con le mani, sono durate l'intera mattina. Ancora reattivi per le attitudini intellettuali non verbali. Per le attitudini e conoscenze verbali, per la capacità ricettiva, infine per le specifiche attitudini meccaniche, dove lo sforzo dei candidati ha una natura più scolastica. Abbiamo corretto le prove, mano a mano che le facevano, per non perdere tempo, segnando le soluzioni giuste e poi traducendole a matita rossa in una cifra di valutazione, secondo un codice. Insomma, davamo un voto. cezzi nel foulard non si mette più. Una faccia davanti a un cancello che non si apre più. Vince e si l'hai guardato la fabbrica. Come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odor di pulito e là. Fatica. E dentro la zero a zero anche ieri sto Milano. Rivera che ormai non mi gioca più. Che tristezza, il padrone non c'ha neanche. Sti problemi qui. Vincenzina davanti la fabbrica. Vincenzina va bene alla fabbrica. Vita giù in fabbrica non c'è, se c'è com'è. Solo io nuovo, ma anche la signorina S si incantava a guardare fuori dai vetri il mare o qualche carretto che passava per la strada. Questo paesaggio visto da dentro, chiusi nel dovere, questo panorama è come la faccia di una bella persona. Ci si volta di scatto, di nascosto, a guardarlo. C'è sempre un'affascinante luminosità bianca nel vento delle nuvole e nei riflessi del mare. controllavo la somministrazione dei test in territorio nuovo, meridionale. Ma attraverso l'area del golfo non si possono lasciare le colline di Capo Alto e la scia lontanissima delle barche a vela. Ma subito andava riportata l'attenzione sull'aula, su questi alunni cresciuti, pieni di barba, sulla ragazza pallida, sull'analfabeta, tutti al giorno del giudizio universale. Con la signorina abbiamo scambiato alcune frasette sottovoce, come fanno gli esami scritti commissari che intanto parlano di affari loro. Martedì. Abbiamo resistito con gli esami sino all'una dopo mezzogiorno. La somministrazione dei test è un po' spiccia qua giù, eppure regolare. Forse manca ciò che consigliano i manuali. Pace, conforto, distacco dal mondo, nella stanza delle prove. Forse manca in tutti i laboratori del mondo. Ancora due donne e un altro analfabeto. Grosso, pesante. All'una passata le abbiamo ammassate tutte nel corridoio stretto che porta al laboratorio. E chiuso l'uscio siamo rimasti nell'aula la signorina ed io. Sentivamo di essere in ritardo. La signorina ha avvertito che sono una massa senza fine e che soltanto il primo gruppo già chiamato occupa la settimana piena, compresa la domenica. Quante domande di lavoro ci sono? Ah, 40.000, stanno in archivio, ma ora bisogna pensare ai convocati e agli esami. Sarebbe meglio che le prove individuali con gli strumenti le facessero tutti nel pomeriggio. Ieri abbiamo trattenuto per le prove individuali solo coloro che avevano decentemente superato le scritte. Gli altri se ne sono andati subito. E poi vorrei parlare con tutti, uno per uno. Insomma, il colloquio di selezione finale lo volevo anche specialmente con i caduti. Quanto ci mette? Ha chiesto la signorina. Un quarto d'ora, mezz'ora. E dobbiamo finire in giornata. Vengono anche da lontano, non possono tornare. Arriviamo a mezzanotte, le prove individuali e il colloquio sono utili per quelle che superano le collettive, ma gli altri? Come ieri, diamo il rimborso spese e li mandiamo a casa. Ma bisogna almeno guardarli in faccia, da soli, sentirne la voce. Non ci si può fidare soltanto del test, ho detto con convinzione non umanitaria, scientifica. Vuol parlare anche con quelli che lasciano in bianco. Proprio con quelli. Ah, sì, sì. Lei faccia pure la sua conoscenza con tutti, se ha piacere. Decide lei, però adesso è 1:15, io vado alla mensa. Sono mesi che con questi esami che mangio freddo. Purché il nuovo venuto provasse e ci battesse la testa, la signorina si è arresa. Abbiamo annunciato ai candidati che c'era la mensa dello stabilimento per mangiare e che si ripresentassero nel pomeriggio. Prima si stringevano nel corridoio interrogativi, poi si sono diretti a mensa rompendosi in gruppetti o strafottenti o divertiti, nell'insieme allegri. Mi sono precipitato con l'automobile a casa e ho mangiato di corso con mia moglie in questo stanzino di soggiorno, tutto finestre, in questo stesso tavolo su cui scrivo. Adesso è buio e sono chiuse le imposte, ma di giorno, stretti tra la finestra aperta sulla collina e quella aperta sul mare, ci si sta sospesi come in barca. In un chiarore gelido, dato che sono giorni freddissimi, e che il vento soffia da enormi fessure. In camera da letto, dove un lettone basso e bianco occupa tre pareti, il vento sbatte il fogliame di un carrubo contro i vetri e sembra che scrosci. Abitiamo una villetta d'affitto su uno strapiombo sopra il mare. I candidati aspettavano. Sono tornato correndo per i 6 chilometri di statale e di nuovo abbiamo trovato la piccola folla, il cui destino va assolutamente deciso in giornata. Alle prove individuali molti sono rovinati miseramente, per lo più gli stessi falliti la mattina. Dunque è vero che la psicotecnica, almeno, non si contraddice. Non riescono a infilare i pirulini di ferro del reattivo Connor in una lastra fitta di buchi, con una mano solo, con il nostro cronometro addosso. Il MED, un meccanismo di ruote, trasmissioni e leve, che smontiamo davanti ai loro occhi e poi non sanno rimontarlo. Oppure a furia di suggerimenti ci passerebbero il pomeriggio. Al pantografo, dove c'è da guidare con due leve una punta scrivente lungo un tracciato a curve segnato sulla carta, per la prova della coordinazione manuale, escono paurosamente dai bordi e bucano la carta con la punta. La signorina trionfava, vede? Al contrario, i bravi della mattina, i bravi verbali e non verbali, si destreggiavano spontaneamente nell'abilità manuale, anche se non erano mai stati operai. È l'intelligenza sempre che conta e noi crediamo a questo primato dell'intelligenza. Una delle due donne, debole già la mattina, ha fatto un disastro. Benché minute di dita sottili si lasciava cadere in grembi i pirolini dell'O'Connor e non continuava a infilare gli altri secondo il nostro consiglio, pescandoli da una vaschetta, ma si intestava a recuperare i perduti nel vestito, si chinava a raccattarli per terra e intanto il cronometro picchettava inesorabile. La sua testa biondiccia, esile, si è fissata contro le spalle come rotta. È stata incoraggiata perché non piangesse. Con il vestito fradicio sotto le ascelle, tutto il suo odore paesano rilievitava quel caldo di paura. È entrato l'analfabeta. Con le mani grosse da anziano manuale, afferrati i pezzi sparsi del medio con brutalità, stava subito per romperci il cordino di trasmissione. «Stia attento!» gli grida la signorina S. E a me dice forte: «Se me lo rompe, dove pesco un altro cordino per il medio?» L'analfabeta si ferma un momento, stacca le mani pesanti dal nostro giochetto e alza il viso butterato, gli occhi tondi. Si riapplica a testa bassa tirando il cordino molto delicatamente, seguendo i consigli della signorina S, e infila due ingranaggi nei perni giusti. Dagli occhi grossi come le mani gli è uscito finalmente una luce di soddisfazione, d'astuzia, tanto che ha proseguito baldanzosamente. Dopo gli ingranaggi monta gli altri pezzi di sua fantasia, a rovescio, in mezzo al nostro attonito silenzio e al logorio del cronometro. Arriva alla fine, avendo collocato tutti i pezzi, gli pare la conferma che la prova è riuscita. «Avanti», dice la signorina, «ora lo faccia funzionare». Egli ci guardava come per chiedere se andasse bene. «Ma avanti», risponde la signorina, in impenetrabile attesa. Girando una piccola ruota, se il mete è montato giusto, si deve muovere alternatamente una leva a martelletta che batte sul piano di legno dell'apparecchio. È un allegro rumore, un segno di vittoria. Egli ha manovrato la ruota, invano la leva era bloccata, perché egli aveva montato tutto, ma a rovescio. Spinge più forte la ruota, ma le trasmissioni si erano completamente bloccate. Spinge ancora con forza, alt, si ferma. «Non lo sforzi», grida la signorina, «me lo spacca». Ha allontanato l'apparecchio da sé, buio, greve. «Ma io sono un uomo di fatica, mettetemi alla prova, ma non con questo qui. Io vi alzo un quintale, io non ho paura di niente, che credete? Mettetemi nell'officina, che vi faccio qualsiasi lavoro, che cos'è questo qui?» «È un esperimento», gli viene spiegato con voce piana, «per vedere le sue capacità meccaniche, assomiglia ai lavori d'officina». Meccaniche, io sono un operaio di fatica, io vi faccio vedere che vi faccio il lavoro di tre operai insieme, io non ho paura di niente, nemmeno della meccanica». Si guarda dentro la sua cartella, la scheda della nascita, dei figli, degli studi. «Lei dove ha lavorato prima?» «Ho lavorato nei cantieri, io sono il miglior manuale di Santa Maria». «Ma vede, noi adesso non abbiamo bisogno di manuale». «E di che avete bisogno? Di ingegneri?» «Non di ingegneri, ma di operai che abbiano attitudine alla meccanica». «Io ce l'ho l'attitudine, fatemi fare la prova». «Questa è la prova». «Ah, dottore, questa», dice sfottendoci e rimanendo seduto. «Me lo potevate dire prima, io negli stabilimenti questi non li ho mai visti. Io sono pratico di stabilimenti, sono stato 10 anni nei cantieri. Io devo lavorare come gli altri. Io devo mangiare». «Ho capito, che scuola avete fatto?» «Nessuna scuola, la scuola ce l'ho in testa. A me mi piace di faticare». Esitava con una vergogna rabbiosa. «Io sono alfabeta. Lì dentro c'è scritto: io sono alfabeta con 7 figli. Ma mi piace di faticare, devo mangiare. Io vi servo più di tutti gli altri». Indicava con la mano quelli fuori della porta. «Va bene, adesso aspetti di là insieme agli altri». Non si alzava. «Aspetti di là nel corridoio». «Ah, aspetta, e che aspetta, dottore?» «Aspetti pure», ha detto Gentile ipocritamente. Alla fine è uscito. «Perché è stato chiamato se è analfabeta?» «Per convincerlo», fa la signorina, «perché è più semplice chiamarlo. Sta in portineria tutte le mattine da 3 mesi. Ne abbiamo ancora 10. Dobbiamo sbrigarci, domani ci sono gli altri». Più la signorina è stanca, più sprigiona energia e corre per arrivare in tempo. «È una donna forte, che sostiene con coraggio il peso del giudizio universale», ha aggiunto seccata. «Bastavano le prove scritte».